Italia in controluce. Buongiorno da Daniele Biacchesi, conduzione di Italia in controluce, l'approfondimento di Radio 24 sulla cronaca italiana, seconda edizione. Le associazioni del volontariato stanno alla base dell'impegno civile, operano in tutti i campi, emergenze sanitarie, ambientali, umanitarie, nell'aiuto delle persone diversamente abili. Sono formate da migliaia di persone che spendono il loro tempo al servizio degli altri, quasi sempre dei più deboli. Con Valentina Furlanetto abbiamo oggi e domani un'inchiesta sul volontariato in Italia. Forse faremo bene ad aggiornare il breve catalogo delle nostre certezze. I buoni, pur animati da ottime intenzioni, non sempre sono davvero buoni. E soprattutto il mondo della solidarietà non è un monolite, ma un universo nel quale rientrano diverse storie e soprattutto diverse prassi. Con questa premessa ci addentriamo nei temi che pone il libro di Linda Polman, L'industria della solidarietà. Scopriamo quindi che, secondo l'autrice, ma secondo anche l'università americana Johns Hopkins, tutte le ONG internazionali e nazionali messe assieme rappresentano la quinta economia del pianeta, con un bilancio annuale di 6 miliardi di dollari offerti da governi e privati. Animate da scopi nobilissimi, le ONG sempre più obbediscono a leggi di mercato, entrano in concorrenza fra loro e lottano per guadagnare visibilità mediatica. Se ne è parlato anche di recente durante il terremoto di Haiti, quando alcune ONG sembravano fare a gara per essere sotto i riflettori. Ne abbiamo parlato con il direttore generale di Medici Senza Frontiere Italia, Kostas Moskokoritis, al quale abbiamo chiesto se non ci sono rischi di distorsione mediatica. Assolutamente. Cioè, non possiamo sempre parlare delle catastrofi mediatiche. Le organizzazioni serie devono andare dove c'è il bisogno. E a questo momento ci sono crisi molto dimenticate, per esempio il Congo. Chi parla del Congo? Solo quando c'è un inasprimento di combattimenti la gente parla di Congo, o dello Zimbabwe, o nella Repubblica Centrafricana, dove c'è una guerra civile sanguinosa da anni. Le ONG assolutamente non devono andare solo dove ci sono le telecamere. Il marketing di una ONG è il suo lavoro. Se il tuo lavoro è buono, lo mostri ai donatori e loro scelgono. Però senza operazioni serie, ovviamente il marketing diventa una macchina con fine a se stessa. Sempre in occasione dei soccorsi e dell'assistenza post-terremoto ad Haiti, abbiamo assistito a un'onda emotiva da parte della comunità internazionale e dell'opinione pubblica che spingeva verso adozioni facili. Le ONG italiane sono state molto chiare al riguardo e hanno frenato gli entusiasmi, dicendo che bisognava innanzitutto verificare che i bambini soli non avessero in realtà da qualche parte i genitori. Non altrettanta prudenza è stata utilizzata invece in particolare da una ONG americana, i cui membri sono stati arrestati per aver portato una trentina di bambini oltre confine e sono stati accusati di rapimento. Gian Gimilesi, presidente del CESVI. Prima ancora che uscisse lo scandalo, noi, le dico come CESVI, ma le parlo anche a nome del coordinamento, appunto, che si occupa dell'infanzia, coordinato da UNICEF, avevamo ricevuto tantissime sollecitazioni a fin di bene che dicevano: approfittiamo di questa generosità per togliere questi bambini dall'inferno. La risposta è stata unanimemente no, non possiamo agire così, è troppo rischioso, rischiamo appunto di creare un commercio e di strappare dei bambini. Questi bambini hanno già subito un trauma, strapparli dal loro territorio rischia di essere un altro trauma, quindi anziché un aiuto. Sulla stessa linea Paolo Palmerini del CAI, Centro Italiano Aiuti all'Infanzia. La tentazione, diciamo, di arrivare, questo in qualunque contesto, con già la soluzione in tasca, pensando di sapere come sarà qual è la via d'uscita da un certo problema, è sempre molto forte. Nelle situazioni di emergenza può essere addirittura più estrema, ma nel caso specifico questo è un caso estremo che difficilmente penso possa suscitare il dubbio comunque che queste persone avessero agito in buona fede. Questo tipo di iniziative sono sicuramente piuttosto discutibili. Italia in controluce. Oggi conosciamo un personaggio che viene dalla Sicilia e arriva in Svizzera, in Germania. Non è un emigrante qualunque, ma è un artista, un musicista che i tedeschi apprezzano molto da molto tempo. Le sue canzoni e le sue opere riempiono i teatri, ma in Italia Giuseppe Pollin, ha detto Pippo, non è praticamente conosciuto. Coi capelli al vento e di cuore in mano, e pensieri che viaggiano arrivano lontano, come treni merci allungano il passo, ad ogni stazione un po' di coraggio. Una delle sue canzoni, A 100 passi, è dedicata a Peppino Impastato, il militante antimafia ucciso a Cinisi, in provincia di Palermo, il 9 maggio 1978. Io conoscevo Peppino Impastato, insomma, la storia di Peppino Impastato da tanti anni. Già quando vivevo in Sicilia, prima degli anni 80, ho conosciuto suo cugino, 1981 per essere precisi, perché faceva parte di un gruppo di musica popolare. Io, come Agricantus allora, perché suonavo con gli Agricantus, entrai in contatto con lui, quindi la storia di Peppino era oggetto di conoscenza, insomma, ben prima che uscisse il famoso film che lo rese poi celebre, per fortuna in tutta Italia. Perché le figure importanti come quelle di Giuseppe Impastato non soltanto vanno rivalutate, vanno diffuse, la storia di Peppino va diffusa per quello che essa rappresenta e per il bagaglio di valori che riesce a replicare in un momento di grande vuoto come quello che stiamo vivendo. Può essere un punto di riferimento, anzi lo è senz'altro per un'intera generazione. Il tuo lavoro poi, tra canzoni e opere teatrali, si è spostato verso una grande storia, un grande buco nero italiano, cioè Ustica. Tu hai incontrato Ustica attraverso il lavoro di Sgalambro, e il lavoro musicale e teatrale parte da un discorso un po' all'incontrario. Ustica non solo dalla parte dei passeggeri, ma dalla parte dell'aereo. L'idea è nata in occasione dell'apertura del cosiddetto Museo della Memoria a Bologna, dove sono raccolti i resti del DC-9 abbattuto nel 1980. Apertura del museo che è avvenuta il 27 giugno del 2007, e in quell'occasione la città di Bologna, insieme all'Associazione dei Parenti delle Vittime della strage di Ustica e il Consorzio Teatrale Emilia Romagna, Accademia Perduta, abbiamo chiesto di scrivere un'opera che potesse la sera, dopo l'apertura che è avvenuta del museo, che è avvenuta nel pomeriggio, potesse in qualche modo suggellare artisticamente un momento così importante per la memoria storica italiana. Quindi ho avuto l'idea di porre al centro dell'attenzione proprio l'aereo, quindi la memoria del ferro, un oggetto apparentemente senza anima e quale appunto l'aereo improvvisamente assume una dimensione umana e comincia a parlare, comincia ad evocare, comincia a ricordare e diventa testimone, dell'unico testimone vivo, ecco, di quanto accadde quella sera lì. Chiaramente per me si è trattato di un lavoro innanzitutto di ricerca, in primo luogo perché dovevo informarmi molto bene su quanto accaduto con i protagonisti anche di questa vicenda, cioè i parenti delle vittime, il giudice Rosario Priore, che ha istruito il processo contro ignoti e contro i generali dell'aeronautica militare accusati di alto tradimento nei confronti dello Stato italiano. Quindi è avvenuto, insomma, sono avvenuti questi incontri in base ai quali poi ho orientato la stesura dello scritto. All'estero, dove tu risiedi, c'è interesse verso l'impegno civile dei fatti italiani? Allora, io risiedo in Svizzera tedesca, a Zurigo, e partendo da lì ho scoperto un auditorio, un pubblico molto molto sensibile nei confronti non soltanto diciamo così dei temi impegnati socialmente, ma anche quelli che fanno riferimento alla nostra storia. La nostra storia a loro è estranea, ma è vicina sotto il profilo psicologico. Le storie, questi buchi neri di cui parlavi tu, sono sicuramente oggetto di interesse anche da parte del pubblico qui, perché non si spiegano come mai un paese dalle grandi tradizioni culturali, dalle millenarie tradizioni culturali come il nostro, possa essere stato anche protagonista di vicende inspiegate e a cui non è stata data la dignità della verità. Italia contro luce termina qui. L'archivio di tutte le puntate su www.radio24.it. Per comunicare con noi, Radio 24 Italia in contro luce su Facebook e la mail controluce@radio24.it. Torniamo alle 6:30 domani su Radio 24.